Blu Radio Sera. Eh sì, erano gli anni 70 quando Eugenio Finardi ci cantava questa musica ribelle, che è sempre un piacere anche a distanza di tempo nel 2011 ascoltare questa canzone, questa musica che ti mette i brividi e ti viene voglia di ascoltare ancora musica. Maurizio, buonasera intanto. Buonasera Flavio, sì, musica ribelle è un mito e rimarrà sempre un mito per noi che abbiamo fatto radio, che facciamo radio, che continueremo a fare radio. Finché avremo la fortuna di poter avere a disposizione i microfoni di Blu Radio Veneto, noi faremo radio e fino in fondo. A proposito di fino in fondo, noi abbiamo i nostri consueti appuntamenti live che hanno preso piede sempre di più, e anche in questa serata di martedì 1 febbraio del 2011 scatta l'appuntamento con Blu Radio Sera Live. Che abbiamo portato questa serata? Stasera abbiamo portato una cantautrice da Bologna. Ah, interessante. No, già la sto vedendo. Eccola qui. E quindi salutiamo Erika Biavati, direttamente da Bologna. Allora, ha fatto buon viaggio, Erika? Sì, un po' di nebbia fino a Rovigo, poi tutto bene. Vabbè, ma si paga anche quella in autostrada, voglio dire. Sì, tutto. Compreso nel prezzo. Comunque, voglio dire, seguendo le indicazioni non ci si può sbagliare. Poi ci sono anche quelle rugliere a lato della strada che ti aiutano ad andare verso Padova. Ma poi noi abbiamo un navigatore fantastico che intanto non digitalizza le autostrade. Non si chiama Tom Tom? No. Si chiama, è meglio non dirlo. Bene, no, non si chiama né Valerio né Giuseppe, che sono i tuoi accompagnatori in questa serata. Sono esatto. Loro i tuoi navigatori? Sì, siamo noi i navigatori fusi, diciamo. Buonasera Valerio. Buonasera. E salutiamo anche Giuseppe. Buonasera. Ecco qua. Bene, allora insieme per presentare qualcosa di tuo, dico qualcosa ma andiamo avanti fino alle 22.30 a presentare un qualcosa, voglio dire. Guarda, un'ora e mezza di piena musica, anche perché voglio dire abbiamo avuto modo di sentire i tuoi pezzi, una voce assolutamente formidabile. Grazie. Poi si è abbinato anche tutto quello che abbiamo visto in giro per internet che riguarda il tuo conto, voglio dire, insomma, ti stai già facendo strada e alla grande, Erika. Ma partiamo dagli inizi. Com'è nata la tua passione per il canto? Sotto allora, la doccia? No, sotto la doccia mi lavo in fretta che ho poco tempo. Oh, basta. Così mi piace. Non canto neanche sotto la doccia. Anche perché l'acqua quando entri in bocca dà un fastidio. Sì, ma infatti, ma ci si affoga, perché cantare sotto la doccia? C'è chi lo fa. No, e poi quando inizia a scendere l'acqua si trattiene il fiato, quindi sì, è vero. Non è una gran bazza, ecco, come si direbbe da noi. E allora, come è iniziato? Allora, è iniziato che ero piccola, proprio sui 10 anni neanche. E mio padre in particolare ha una grande passione per la musica, per quanto sia totalmente non portato, stonatissimo, una cosa abominevole. Però insomma, tramite lui, che aveva vari amici musicisti, ho iniziato ad ascoltare musica italiana, in particolare Mina. E poi ho iniziato a cantare con un suo amico, un signore anzianotto, e un chitarrista e amante di Mina, per cui ho iniziato a fare canzoni di Mina, tutte e solo canzoni di Mina. Quindi da lì, diciamo, è stata una cosa bellissima, però anche cioè, mi ha anche molto segnato, perché dopo la vena super melodica è rimasta. Ogni tanto pesa, ha pesato, diciamo, però... È un po' complesso anche, voglio dire, cioè, c'è alla base anche una certa bravura, perché Mina, insomma, non è che lo fanno tutti. Ma diciamo un po' di pazzia, perché mi sono distrutta la gola, ovviamente, cioè, urlavo come un ossesso. Lo sentivo anche prima durante le prove, avremo modo di sentirlo anche in diretta, che sentiamo che tipo di ossesso. Sì. No, poi per fortuna diciamo che col tempo un po' di raziocinio è arrivato, e quindi sì, inizialmente urlavo come una matta e cantavo le canzoni di Mina veramente malissimo. Però mi piacevano. E poi dopo a scuola, al liceo, ho cominciato a suonare, a cantare con gruppi di ragazzi della zona, così, e lì ho scoperto il blues, e che mi veniva molto male. Immaginati una voce stile Mina, brutta, urlata, tutta un po' calante, che provava a cantare blues, veramente bruttino. E poi da lì ho iniziato a studiare tutte le varie esperienze, gli studi, i gruppi... tutto. Ma c'è un gruppo che si chiama Soul Sisters, che ama la musica nera, quindi il blues. Tu hai fatto parte di quel gruppo? Beh, diciamo che è la mia creatura. È la tua creatura, esatto. Sì, perché mi avevano chiesto di preparare una serata per la festa della donna e sulle cantanti soul avevo pensato, solo che alla fine gira e rigira particolari pezzi più bellini erano stati interpretati da Rita Franklin, così quindi abbiamo detto vabbè, facciamo un tributo, anche se parlare di tributi a me non piace, poi tributo non all'ultima arrivata, diciamo. E quindi ho detto vabbè, chiamiamolo proprio tributo, è un gruppo, facciamo soul, siamo in 10. E 10 sono... sorelle, bravi. No, guarda, 10 e anche poco. Beh, 10 sono, siete in 10. Siamo in 10, sì, siamo la band al completo, basso, chitarra, batteria. C'è tastiera. Anche Valerio allora, sì. Sì, certo, l'abbiamo tenuta. Avete tenuto. Poi abbiamo... Che carini che sono stati, Valerio. Mi hanno rapito proprio. Siamo buoni. Con lo sguardo. Sì. Come un'opera, no? Di carità, queste cose. E poi abbiamo i fiati e tre coriste che sono tre mie allieve molto in gamba e con loro, insomma, con questa formazione purtroppo non si riesce a suonare tanto perché sai, siamo in 10 e quindi muovere tutta la baracca è impegnativo. Certo. E, però insomma è bello, è sempre bello, un genere che adoro e... Insomma, che parte e va, parte da Aretha Franklin, poi si sviluppa, ritorna a Aretha Franklin, oppure ma no. Diciamo che gira intorno a classici del soul, molti dei quali interpretati da Aretha Franklin, poi dopo c'è un po' di tutto, qualche blues, così. E Janis, la fai? Sì, facciamo... Vedi, mi interessava quello. Me l'hai nominato. Certamente, mi interessava molto quello. Di Janis Joplin, sia con la mia band, sia cioè quando nel mio progetto inedito, sia col tributo, facciamo Turtle Blues, che è un brano appunto che cantava. Sì. E poi dopo, vabbè, in passato ho fatto altre cose, però sì... Bello, bello. Quindi, come ha detto giustamente Flavio, hai parlato, la vena melodica, Mina, chiaramente è partita la melodia, poi hai sviluppato tante altre cose, e tu chiaramente hai sviluppato tante altre cose oltre alla melodia, il blues, il soul e la musica del cantautrice, tra virgolette, chiaramente. Sì, diciamo che, allora, la musica d'autore ho iniziato a scoprirla a partire appunto da Mina, dalla musica italiana in poi, ascoltando... un po' per caso poi le cose, perché insomma gli amici quindicenni non è che fossero fanatici di De André, quindi mi è capitato un po' in qua e un po' in là, ho cominciato a capire che quello che mi piaceva era un po' la musica d'autore e poi gli eventi, la vita, le cose mi hanno portato a scrivere e ho studiato chitarra, pianoforte per riuscire a comporre e accompagnarmi nelle mie composizioni e quindi da lì è nato un po' tutto. Io ho iniziato a scrivere che avevo 16 anni e delle cose anche lì raccapriccianti, però che sono migliorate e poi dopo il lavoro, io per tanti anni ho assistito disabili e ho iniziato che avevo 17 anni, 18, poi ho continuato fino ad adesso, quindi fino ai 30, quasi, non ne ho ancora 30 e da lì, insomma, vedi tante cose, rifletti su tante cose, cominci a prendere le cose che succedono un po' in maniera diversa, allora i testi ne risentono, ecco. Bene, allora Maurizio, stiamo parlando con Erika. Per aiutare i nostri ascoltatori per capire qualcosa di più della musica di Erika, direi che potremmo partire già con un primo pezzo. Decisamente, sì. Bene, allora da Blu Radio Sera... C'è una canzone che adesso entrerà a far parte della nostra serata, si intitola La luna ha paura del buio e poi torniamo in diretta per commentarla insieme qui dai microfoni di Blu Radio Veneto assieme ad Erika Biavati. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Questa notte ho una strana sensazione, c'è qualcosa lì nel cielo che si muove, come mille petali si staccano da un fiore, senza disturbare, senza alcun rumore. Questa notte cadono le stelle, scendono fra i tetti delle case, come gocce lentamente lungo i quando tutto tace e la luna adesso come farà? Ha paura del buio e nessuno lo sa, e la luna dovrà scendere a riprendersi le stelle, ma quello che vedrà non la farà dormire più. Si taglierà col freddo del buio di qua giù. Oh, oh, oh, oh. Questa notte nell'oscurità c'è il chiaro di luna, nessuno ormai può più dormire, devono guardare. Guardate tutti questa volta la faccia scura di chi vive nel silenzio, di chi ha paura. È arrivata una polvere di luce, scivolando giù quando tutto tace. E la luna adesso come farà? Ha paura del buio e nessuno lo sa, e la luna dovrà scendere a riprendersi le stelle, ma quello che vedrà non la farà dormire più. Si taglierà col freddo nel buio di qua giù. Apre gli occhi la luna alla paura del buio, guarda giù e vede quello che vi si nasconde dentro. Radio Sera. Blu Radio Sera. E nel nostro salottino live di Blu Radio Sera c'è stato modo di conoscere Erika Biavati come canta, ascoltando insieme La luna ha paura del buio. Come mai questo quadro così particolare, intenso, ma nello stesso tempo un po' c'è un po' di paura sotto? Sì, come cioè... dice il titolo. Diciamo che La luna paura del buio è un brano che parla dell'emarginazione, è molto evocativo, è tutto per immagini, tant'è che poi pensavo di fare un video tipo cartone animato, adesso vediamo, e racconta, diciamo, la metafora è la luna che si sveglia e si ritrova senza le stelle perché sono cadute giù, e ritrovandosi al buio si accorge di avere paura del buio, quindi va verso la terra per raccogliersi le sue stelle. E a quel punto però le stelle nei bassi fondi, diciamo, della città hanno illuminato tutto quello che stava nascosto nel buio. A quel punto la luna vede tutto quello che è nascosto nel buio, quindi metaforicamente, diciamo, i barboni, persone povere, così, e a quel punto si rende conto di avere davvero paura di quello che c'è nel buio, non di rimanere al buio. Certo. E diciamo che appunto con questa canzone un pochino volevo raccontare le paure che si hanno da bambini, che poi dopo ci si porta dietro dopo e che modificano. E sì, anche questo è un brano a cui sono molto legata, uno con cui, cioè una canzone con cui ho lavorato con i miei musicisti da parecchio tempo, che mi piace sempre riproporre anche ai concerti. Una canzone difficile da proporre, da sviluppare. Non è una canzone semplice, un po' decadente nella fase finale, secondo me. Sì, è decadente nel senso? Musicale del termine. Beh, diciamo che ad esempio in questa versione l'abbiamo sentita pianoforte e contrabbasso. Mm. E già il contrabbasso è uno strumento decadente nel senso positivo, sì, del termine. Sì, sì, c'è anche di macabro. No, macabro, un po' dark, ma non proprio dark, pesante. Una vela di cupo, di oscuro. Sì, sì, un po' di malinconia. Soprattutto diciamo, quando lascia andare un po' le corde, no? Questa vibrazione sottofondo. Sì, sì, diciamo che la vena malinconica è abbastanza fondamentale in tutta, sì, in tutta la mia produzione. E in questo brano in particolare sì, perché comunque non si arriva a una soluzione. E si arriva nell'ultimo ritornello, dice che adesso la gente sa che la luna ha paura del buio, quindi ormai le vere paure sono sotto gli occhi di tutti, quindi ormai è tutto lì, però non, diciamo che non fa prevedere necessariamente un futuro positivo, si sa semplicemente che si è scoperchiata la pentola, poi quello che succederà da lì succederà. Bene, ricordiamo anche ai nostri ascoltatori che non è possibile solo sentire la nostra intervista in diretta, è possibile anche vederla tramite le nostre webcam, i nostri potenti mezzi, collegandoci a direttarockwave.tk, si può vedere in diretta quello che sta succedendo nel nostro salottino qui a Blu Radio Veneto. Salutiamo anche il nostro direttore artistico, che è Alberto Prisco, sì, che grazie a lui stasera siete qua. Grazie. Salutiamo anche la Cristina, grazie, che è la nostra affezionata ascoltatrice che vi segue. E un'altra cosa, ho letto una cosa molto interessante, tu sei laureata con una tesi sul registro di fischio laringeo, cioè a Bologna. Allora, diciamo che non è una laurea, è un corso post laurea a cui potevano accedere anche insegnanti di canto che avessero esperienza. Parliamo sempre della voce, sì, chiaramente. Sì. Mm. Per cui io mi sono presentata, sono stata ammessa, ho frequentato l'anno scorso e è stato un corso veramente illuminante, molto molto interessante, con un mucchio di spunti, un mucchio di docenti validissimi. E mi dispiace che sia un corso poco conosciuto, perché è l'unico in Europa ed è veramente stimato anche da personaggi importanti in questo campo, anche all'estero, quindi è un peccato che non se ne parli mai. Comunque il corso di alta formazione in vocologia artistica. E durante questo corso appunto ne ho approfittato per approfondire una ricerca mia che era già iniziata sul registro di fischio, che diciamo comprende le note più acute della voce. Mm. E poi vabbè, tramite questa, grazie a questa ricerca ho vinto questo riconoscimento. Certo, ma vogliamo ripetere quella parola difficile, perché non sempre si sente questa... Registro di? Registro di fischio. A parte il registro di fischio. Laringeo. Laringeo? Sì, basta. Basta? Allora, il corso, sì, il corso è un corso di alta formazione in vocologia artistica. Ecco, perfetto. Ah, vocologia artistica. Si tiene a Ravenna, sì, e alcune lezioni invece a Milano. Mm. E il responsabile scientifico è in primis dottor Franco Fussi, che è un foniatra che segue tutti i cantanti, praticamente, attori, tutti i professionisti della voce, anche speaker radiofonici. Ah, bene, dovremmo andare allora, Maurizio. Sì. Ed è veramente un grandissimo professionista che organizza questo corso stupendo. E questa ricerca che ho fatto sì, mi ha portato bene, diciamo, nel senso che poi dopo ho applicato un po' gli studi fatti, le scoperte a cui siamo arrivati, anche nella mia musica, facendo anch'io qualcosina con la voce, praticamente. Sì, col fischio. Col fischio. Appunto, che non è fischio laringeo, perché è fatto con le corde vocali, non con la voce. Io e Flavio abbiamo ci ricordiamo di una cosa. Tempo fa, vero Flavio, abbiamo intervistato, sì, Bernardo Lanzetti. Bernardo Lanzetti ha inventato uno strumento particolare per aumentare la voce. È inventato anni fa e l'ha usato più di una volta nei concerti live per aumentare, cioè per dare uno sviluppo vocale in modo diverso, uno strumento particolare che lui ha inventato ancora negli anni 70. Se adesso mi viene in mente o anche tramite internet vi dico anche il nome. Ma è uno strumento che si applica alle corde vocali. Sì, esattamente, si applica alle corde vocali. Un po' particolare che è uno strumento che lui ha fatto degli studi negli anni 70 a Londra. È un strumento elettronico che lui ha inventato e poi l'ha portato in concerto più di una volta. Ha un termine, proprio un nome, si chiama così, e l'ha inventato proprio lui. Negli anni, Bernardo Lanzetti, se ti ricordi, era il leader. Allarga l'estensione. Esatto, allarga l'estensione vocale. E Bernardo Lanzetti era il leader della PFM, era il vocalist della PFM per alcuni, solo per tre dischi. Era molto considerato, era vicino alla vocalità di Peter Gabriel. Era il Peter Gabriel italiano. Suona ancora, chiaramente è un musicista molto famoso, molto importante, un chitarrista straordinario, e ha inventato quel modo, quello strumento particolare. Un'altra persona che ha studiato la voce, beh, tu lo sai sicuramente, Demetrio. Chiaramente Demetrio è al di sopra di tutto. Sì, ho partecipato anche a un corso in realtà sulla tecnica vocale, sul canto armonico, che era all'interno di una rassegna tributo a Demetrio Stratos che fanno ad Alberone, in provincia di Ferrara. In provincia di Ferrara, credo di sì. Non lo so, va bene lo stesso. Anche una bella cosa, anche questa qui è una cosa poco conosciuta ma che merita. E infatti anche in questa occasione abbiamo sperimentato cose strane con la voce, molto bello, interessante. Correggetemi se sbaglio, ma sì. Demetrio Stratos non è colui che riusciva ad emettere due suoni contemporaneamente? Mi pare proprio sì. Sì. Demetrio Stratos ha studiato con Tranquangai, che era, è quello che mi ha insegnato il canto armonico. Il canto armonico è un tipo di canto che si utilizza fondamentalmente per la religione, cioè comunque questi tipi di canti un po' particolari sono sempre legati a qualcosa di più profondo della voce e basta. E conoscendo Tranquangai, diciamo che è questo ometto vietnamita in gambissima, veramente preparato, e ha scoperto l'utilizzo degli armonici, quindi dopo sfruttando la cavità di risonanza in bocca si riescono a fare, diciamo, ad amplificare alcuni armonici della voce, per cui dopo il suono sembra moltiplicato. Ma il canto armonico è quello che ogni tanto mi fai mentre siamo in macchina, che io mi spavento. Sì, mi odiano. All'improvviso. Ah, ecco, capito. Io mi rilasso a farlo. Flavio, cosa dici? Facciamo il canto armonico. Facciamo sentire il canto armonico. Allora, il canto armonico anche in radio, grande. Allora, il canto armonico è una roba tipo, questo è un modo, se no volta però a sinistra, no, cambia marcia, non so, poi qualcosa. Però questa è proprio una cosa proprio iperbasilare. Dopo ci sono personaggi che riescono addirittura a cantarci. È ovvio che gli armonici comunque seguono. Cioè devi riuscire a trovare l'armonico, fai il movimento. Gli armonici comunque seguono una successione matematica, per cui non è che tu muovi la bocca ed esce la nota che ti pare. Matematica trigonometrica algebrica. È una cosa difficilissima che io non so, però so che è difficile. Certo. E quindi sì, diciamo che gli utilizzi non sono vastissimi in campo artistico, ecco, però prima o poi riuscirò anche comunque a fare. Tu parlavi di relax facendo queste sonorità. Sì. Penso che anche facendo come usano fare i tibetani si possa. Sì, ma è questo, poi perché poi alla fine si arriva alla fine alla medesima. Si utilizza per la meditazione ed è un, io ho seguito diversi corsi di canto armonico e alcuni dei quali abbinati alla meditazione, che decisamente non fa per me. Proprio non fa assolutamente per me. visualizza che quindi vabbè, però ecco, sì, è sempre molto legato questo modo di utilizzare la voce al corpo, anche perché comunque è stato provato che diverse frequenze fanno sì che si compongano diverse forme geometriche precisissime, e è stato provato sia su materiali liquidi che solidi, in varie forme, per cui sicuramente c'è una correlazione tra il suono e il corpo e quindi lo spirito. Amen. Bene, allora vogliamo sentire lo spirito, vogliamo entrare noi in meditazione e ascoltare qualcosa di tuo, dal vivo. Dai, facciamo. Vai. Allora, vi facciamo sentire un brano e si intitola Prendimi. Il mio chitarrista mi ha appena calciato. Non so niente, ma mi ha calciato. Non si è visto perché non c'è la webcam sotto. Sì, però io l'ho sentito, ve lo giuro, mi ha calciato molto forte. Dovevo attivare la chitarra. Abbiamo attivato la chitarra. Che c'è una serie di pedaliere là. Che... Devo calciare la Biavati per attivare e disattivare la chitarra. Fiumi di sangue volano dalla mia gamba adesso, però va bene. Allora, questo brano si intitola Prendimi e ve lo facciamo così. È un pezzo un po' fancheggiante, vai. Diciamo. Nascosto un po' di me, dentro tutte le parole, per l'occasione ho preso in prestito. Ho indossato l'abito che dovresti preferire per convincerti che sono come tu mi vuoi. Ora so quello che devo fare, non ti particolare, non ho più paura di sbagliare, sono pronta per ricominciare. Prendimi e portami a parlare, stringimi, fammi un po' vedere. I tuoi movimenti lenti intorno a me, ed ora so quello che devo fare. L'ultimo particolare, non ho più paura di sbagliare, sono pronta per incontrare. Prendimi e portami a ballare, stringimi, fammi un po' vedere. Amore, cosa c'è nel tuo profondo? Paola De Simone. Sono Paola De Simone e vi aspetto tutte le notti dal lunedì al venerdì con Pubblico e Privato, incontri con personaggi del mondo dell'arte, un'ora in cui andremo ad approfondire la conoscenza di protagonisti e comprimari, sempre con una luce accesa sulle vicende umane di ognuno. Dal lunedì al venerdì, Pubblico e Privato, le parole della notte in blu. A mezzanotte su Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoci qua, siamo tornati in diretta dopo aver ascoltato questo bellissimo, bellissimo pezzo dal vivo. A cantarlo era Erika Biavati, che è qui con noi in studio insieme ai suoi accompagnatori. Ancora buona serata Eva e benvenuta nei nostri studi. Proprio funky, Erika. Sì, ma il funky, sì. Cioè, il funky a tua misura, però, bisogna dire. Sì, perché comunque ricordiamoci che io sono, cioè, veramente una palla. Quindi diciamo che sì, è funky l'andamento, diciamo, sì, un l'andamento po' è funky, di sì. Franco, che adoro, sì. E che ho visto... Hai visto più di una volta? No, solo una volta. Una volta hai visto. Ha fatto tanti dischi diversi, sì. Tanti dischi particolari, sì. Tanti dischi alla Eni di Franco praticamente. Sì, perché poi dopo... Una musicista non è catalogabile, Eni di Franco. E... Beh, lei intanto è riuscita, ha potuto anche, insomma, credere molto in se stessa, autoprodursi. Esatto. E quindi ha avuto questa possibilità di essere totalmente libera, di fare di tutto e di più, di sperimentare, buttarsi. E poi è piaciuta così com'è, particolare, una donnina piccolina, bravissima musicista. Non una particolare dote vocale, no. Però veramente... È una tosta però, non, sì, ha mica, sì, paura di niente. Veramente una grande grinta, anche i testi, anche politicamente impegnati, certo. Quindi veramente una grande artista. Quindi Eni di Franco non è nel tuo DNA, però ti piace, ti piace. Ci piace, sì. Ok, benissimo. Quindi soul funky, un po' più che soul funky, cioè una cosa un po' assieme in questo, sì, pezzo. Sì, diciamo qualcosa di un po' nervoso. Mm. Sempre io, ma nervoso, sì. Nervoso sistemato, però non, sì, nervoso nervoso. Sì, c'è sempre un super controllo. Anche il nervoso è sempre molto controllato e contenuto, quindi comunque diciamo che è a misura mia, ecco. Ah, benissimo, benissimo. Bene, allora, noi stiamo cominciando a conoscere sempre di più Erika Biavati, la sua musica, il suo modo di vedere la musica e le sue esperienze al di fuori della musica. Però per saperne di più, perché magari in questa serata in un'ora e mezza prendono un sacco di cognizioni e poi dicono: ma dove possiamo ancora una volta prendere appunti? C'è un sito internet? Sì, allora, bene. Siamo online. Oh. Abbiamo il sito internet, sì. www.ericabiavati.it, Erika con la K. Con la K, mi raccomando. Perché vuoi mettere Erika. Sì, perché succede sempre così, con la Erika si chiede, con la K o senza? Sì, cioè, ovviamente con la K. Con Katia è un disastro, con la K, con la York, è meglio Erika. Okay. E poi abbiamo il sito, il MySpace, www.myspace.com, giusto? Sì. / Erika Biavati The Clan, che è un'associazione culturale a cui ci appoggiamo in alcuni dei nostri spettacoli e di cui faccio parte. Poi c'è la pagina YouTube per vedere alcuni video, e alcuni dei quali verranno inseriti nei prossimi giorni, che sono video dell'ultimo concerto fatto, ed è www.youtube.com/Erika Biavati. E poi mi trovate su Facebook, Erika Biavati, c'è una foto bella perché è un fotografo molto bravo. Sì, belle foto. Beh, sì, e... ti presti bene anche, vuol dire, sì, certo. Diciamo, io sto immobile, trattengo il fiato e passo tutto. Benissimo. Poi un'altra cosa a proposito, abbiamo parlato di vari indirizzi, quindi trovarti anche su YouTube. Su YouTube è visibile anche un tuo filmatino con Elio e la Storia Tese, assieme al suo... Già. Compare Cesareo, che ti affrontano e rimangono, come dire, stupiti, non sanno cosa dirti. Sì, anche io sono rimasta stupita. In effetti si vede appunto nel comportamento anche degli altri due, perché non sapevano se prestarsi ad una battuta, ma sono rimasti effettivamente... Diciamo che sì, allora, va premesso che io partecipo da sempre a tutti i concorsi, a tutte le cose. Ovviamente i miei musicisti mi odiano, perché... Infatti anche mi chiama a tutte le ore della notte. Per mi sono concorso. Iscritta! Scade! Ma cosa si vince? Non lo so, ma quanto si paga? Però iscriviamoci, perché scade. E quindi fra tutte le cose, questa in particolare è stata sponsorizzata dalla band e in primis dal mio bassista maniaco per X Factor. Va bene, quindi dai, fai, provivi. andiamo a fare i provini. E il sottoscritto l'ha accompagnato. Sì, ah, che bene. Sant'uomo, sì. L'ha accompagnato. Buono. Siamo San stati... Valerio. Bene. Siamo stati lì quelle 10 ore. Sì, X Factor. Sì, 10 ore sotto i riflettori, non si poteva neanche uscire a fumare perché dovevano... Beh, quello fa male, fumare. Sì, fa male, ma ti assicuro che anche stare 10 ore... Fa male in mezzo quello. A certa gente, anche perché... Comunque fumi lo stesso alla fine, dopo, sì, no? Certo. Sì, fumi di tuo, perché sì, esatto, poi... fuma il cervello. Erano le selezioni, quelle che si vedono appunto, le selezioni finali davanti a Elio, per cui moltissima gente ci teneva a far colpo per essere un po' particolare. Quindi ecco, 10 ore in mezzo a un branco di matti che fanno di tutto per farsi notare, è stato un po' faticoso. Poi ho cantato... Cesario gli ha fatto i complimenti perché è l'unica che si è portata il diapason. Ah, giusto, vedi, sì. Famoso diapason. Sì. Per me è stato allucinante pensare che 100.000 milioni di persone vanno a fare i provini senza diapason. Nel senso che tu entri, parli, nei provini in TV si vede una parte di quello che succede, quindi si parla un po' e poi si canta. Quindi non è possibile prepararsi, diciamo, la nota prima, certo, e poi entri e canti. Quindi insomma a me sembrava assolutamente logico e scontato, invece evidentemente no, e questo mi ha lasciato stupita perché dico, boh, non so, vai, ti impegni tanto per fare un provino. Anche perché di solito i musicisti se la fanno nel monitor, no? Prima di iniziare a far sentire, si fanno sentire un arpeggio al monitor. Beh, e poi si parte col master, no? Ma diciamo che di solito si canta con una band, sì, non si certo canta a cappella. Lì non c'è nessun riferimento musicale. Esatto, certo, di fatto. Zero, per cui tu sei lì, non hai nessuna amplificazione, nessun ritorno, insomma... Parti da zero, e quindi è anche difficilissimo, voglio dire, partire da zero e fare quell'acuto che abbiamo sentito su YouTube, che adesso ci ripeterai. Certo. Ce la ripeti? Sì, va facciamo. Bene. Vediamo? Allora, vai. Premetto che appunto questa... bevo. Sì, sì. In diretta, in diretta. Quindi ricordiamoci, diapason, bottiglietta di acqua. Sì, sì, bottiglietta d'acqua, dopo si consiglia l'estetista anche, non si sa mai. Sì. E la parrucchiera. Diciamo che abbiamo scelto con la band di proporre questa canzone per la canzone in sé. Nel senso che il brano è La sedia di là di Alberto Forti. Certo. È una canzone che a me piace tantissimo e che mi ha proprio colpito fin dal primo ascolto. E poi i miei studi sul registro di fischio mi hanno portato a inserire il fischio in questa canzone, che spesso quindi quando viene eseguita da noi in concerto viene ricordata per l'acuto, però ecco, io vorrei che ci si fermasse proprio sulla canzone, perché per questo proprio un grandissimo complimento da parte mia e anche invidia verso Alberto Fortis, perché è un brano bellissimo, intenso, poetico, e che, ecco, che io amo fare soprattutto in quanto brano. L'hai fatta sentire Alberto Fortis, cosa ha detto? No, però ho conosciuto Alberto Fortis, sono andato a un suo concerto, era solo voce piano l'anno scorso. Sì, è vero, sì, ha fatto un concerto, una serie di concerti Bologna, di quel tipo, esatto. E l'ho incontrato, fra l'altro devo ammettere che per incontrarlo la mia amica, noi siamo una tribute band italiana ad Alberto Fortis, che ma quando mai? Cioè, i fortissimi! No, va bene, ha funzionato. Tra l'altro io ammetto la mia ignoranza, a parte un paio di pezzi, non è che sono ferratissima. E quindi sì, il panico più totale. Non gli ho ancora fatto sentire il brano, però penso che glielo spedirò scusandomi del piccolo malinteso. Vabbè, ascoltiamolo. Bene, allora non si sente in cuffia? Sa sì. Bene, bene. Stava immobile nel letto, con le gambe inesistenti, una piaga sulla bocca che seccava il suo sorriso, mi parlava rassegnato con la lingua di chi spera di chissà che ha prenotato sulla sedia di là. Ogni volta che rideva si stracciavano le labbra, il sapore che ne usciva era di stagione amara, le sue rughe di cemento assorbevano di rosso, prontamente diluito da una goccia molto chiara. Che dire, che dire, Flavio, siamo a un passo tra gli ultrasuoni e un disco del Guardiano del Faro, esatto. se ve lo ricordate, Monti il Gabbiano infelice con quel Moog. Ebbene, qua non serve il Moog, abbiamo la voce di Erika Biavati, veramente eccezionale, wow. E assolutamente devi mandarglielo. Devi mandarglielo. Alberto Fortis sarà contentissimo di ascoltare questo pezzo. Speriamo. Anche perché ultimamente è sempre più avvicinabile. Una volta gli artisti da tramite, tipo i politici, adesso invece sono ritornati, voglio dire, un po' più umani. Umane, diciamo. Sì. Beh, sì, purtroppo io ci vedo il lato triste perché sono. Sì, così. Vedo sempre il lato triste delle cose. Cioè, purtroppo è più avvicinabile Alberto Forti rispetto a un Marco Carta. E questo non è cosa buona. È perché Marco Carta, sai. Anche perché lui abita in Sardegna, esatto, Carta. Per quello, sì, quello. Quindi è un po' difficile da vigilare. È anche costoso. Sì, sì, oltretutto. Ah, che purtroppo sì, penso che l'ignoranza che c'è adesso in campo di pubblico proprio musicale, gli ascoltatori della musica. Hanno poco di che cibarsi, quindi hanno poco con cui formare il proprio gusto artistico. Di conseguenza si apprezza quel che passa al convento, questi prodotti usa e getta, e adesso senza nulla togliere a Marco Carta, che poverino, cioè poverino, no, non sarà povero per niente. No, diciamo che... direi proprio di no. Però, insomma... Si è fatto conoscere. Si è fatto conoscere, si sarà fatto voler bene. Sì. E, però... Diciamo che tanti altri artisti purtroppo hanno meno visibilità e meno fan sotto il palco che si strappano i capelli, quando in realtà sì, magari non strapparsi i capelli, però ci vorrebbe molta più gente, molto più spazio per certi artisti. Devi tenere conto di una cosa, Fortis è sempre stato un artista, parlando di Fortis, che non ha mai avuto... Non si è mai venduto. Non si è mai venduto, esattamente. Dicendola proprio così, perché lui ha sempre... Quando diceva, sì. Doveva dire una cosa, la diceva in faccia. E per quello, certe volte, in certi momenti, è stato un po'... È stato emarginato. E gliel'ha detto anche a Vincenzo. Esattamente. Volte, che era il suo produttore, che se n'è andato qualche tempo fa. Esattamente, sì. Diceva proprio, fuori dai denti, Vincenzo, io ti ammazzerò. Troppo stupido per me. Ecco qua, e infatti poi ha chiamato, prima o poi. Dobbiamo tenere conto di una cosa, che questo è un pezzo molto difficile, anche musicalmente. Parlando, complesso, dal testo molto importante, molto profondo, molto pesante, e tu l'hai trattato benissimo, perché musicalmente è un pezzo difficile, strano, complesso, che si conclude quasi come una sinfonia alla fine. Sì, diciamo che questo è un brano che è molto povero a livello melodico, nel senso che la strofa, almeno tutte le strofe, insomma la canzone si muove poco, sì. Anche a livello di accordi è ripetitivo, e proprio per questo penso ci sia una grande difficoltà, perché è tutto lasciato all'interpretazione o comunque a un far proprio il brano, sia a livello musicale che a livello canoro. E poi per me rimane proprio una chicca poetica della musica italiana, quindi, e ho notato che comunque anche magari i miei allievi, io insegno canto, a cui ho proposto questa canzone dal nulla, semplicemente ho fatto leggere il testo, ovviamente non la conoscevano, ma molti dei miei allievi non conoscevano neanche i Beatles, quindi purtroppo adesso li conoscono. Bocciati. Però ecco, diciamo che sono giovani. Sì, sono giovani, però, cavolo, non conoscere, cioè, i Beatles. Beh. Ho proposto Let It Be, no, e Jude, no. La sigla di Stranamore. Ah, sì! Ah. Mm. Quello, ecco, l'importante è avere delle certezze. Sì, sì, sì, certo. Quindi anche persone tipo appunto allievi di canto, persone che non hanno una grande cultura musicale magari, ma che si approcciano alla canzone, leggendo un brano del genere, sono riusciti comunque a sentirlo vicino. Quindi in realtà il pubblico non è così ignorante, se gli dai da mangiare delle cose buone poi riconosce. Il problema è grosso, è dare da mangiare, il coraggio di dare da mangiare cose buone. C'è una specie di prodotto biologico anche nel fatto nella musicale, nella musica, sì. No? Sì. Anzi, però tu prima dicevi ci sono poche proposte, no? Di quelle valide, per cui la gente ascolta sempre i soliti pezzi. In realtà ce ne sono molte proposte, secondo me, di molte etichette indipendenti, che però non riescono a sfondare spazio, perché gli manca naturalmente la spinta giusta. E manca la major, che manca sempre quella poi alla fine. Ma perché il problema è che la gente non sa neanche che esiste il MEI, e che esiste, che esistono festival della musica d'autore, il premio Bianca da Ponte. Qui sono arrivati in finale. Sì. Vuoi parlarne? No, è un premio bellissimo. Sì. Siamo stati trattati benissimo. Organizzato da Gaetano da Ponte, in memoria della figlia Bianca. Veramente è stato meraviglioso. Proprio bello, bello. Con Fausto Mesolella come direttore artistico, eccetera. E, però ecco, la gente non lo sa. Non sa che esistono delle proposte un po' più nascoste. La gente guarda la TV, vede quello che dicono. Ma i reality stanno uccidendo la musica. I reality stanno uccidendo la musica, c'è poco da fare. Amici X Factor, questi sono i reality, c'è poco da fare. E purtroppo la gente si ricorda chi ha vinto X Factor, chi ha vinto Amici, ma due anni dopo ti ricordi chi ha vinto Amici, chi ha vinto X Factor? No, ma infatti la ricerca è di un prodotto usa e getta, deve durare un anno. Come quando una volta ho chiesto, ma quanto vive il maiale? Un anno. Ma dai, il maiale perché è impossibile, lo vogliono gli altri. Vive un anno. Vive un anno perché poi se lo mangiano. Lui di suo vivrebbe di più e anche più volentieri. È uguale, prodotto da talent purtroppo è come il maiale. Sì. Ma sono le case discografiche che impongono queste cose, le major. Cioè le major, a loro interessa quel giorno, certo, Marco Carta, per dire un nome, l'anno dopo Marco Carta è già un po' dietro e arriva subito un altro. Le major coproducono i programmi, per cui hanno il loro tornaconto, certo, nel promuovere artisti. Ma infatti adesso, quando siamo stati a X Factor poi in realtà a fare i provini, in realtà c'era anche, abbiamo conosciuto molta gente che comunque sono degli artisti validi, ma tentano di fare X Factor per arrivare poi, diciamo, emergere, e poi dopo, una volta che uno emerge, può permettersi di fare un po' quello che vuole, certo, anche se poi esce fuori dal giro non fa niente. Il fatto di aver avuto quella, diciamo, quella popolarità comunque lo fa rimanere a galla, diciamo, nel settore musicale, nel settore discografico. Ma in realtà, infatti, c'erano proposte molto valide e tutti dicevano: io basta che faccio un botto e poi mi metto a fare quello che voglio, o il blues o quel genere o quella cosa lì. Questa è l'idea, cioè, nel senso che poi alla fine ci sono veramente tanti artisti, appunto in Italia, l'abbiamo visto a Milano, che comunque sono validi veramente, e che cercano di usare questi canali, questi strumenti che noi reputiamo comunque un po' che uccidono la musica, li cercano di sfruttare per poi fare quello che vogliono, per esprimere la loro personalità musicale. Se riescono a rimanere indipendenti esatto. e sani, perché Non appena ti metti all'interno di una major, loro succhiano finché possono, no? Esatto. Sono delle idrovore, dopodiché ti esatto. lasciano, no? Quando ti fanno esatto. firmare quei contratti un po' anche capestri a volte, sì. diciamo. E quindi poi alla fine chi prende è la mara, chi lascia esatto, è esatto. la voce dell'artista. Cosa facciamo? Suonare ancora Erika? Cosa dici? Certo, siamo qua per questo. Suoniamo. Dal vivo, sempre siamo con Erika Biavati, assieme al suo chitarrista Valerio, dai. L'accompagnatore dai, Giuseppe. Facciamo... Ok, facciamo questa bella canzone. Più tardi sentiremo anche la voce di Giuseppe. Mi pare giusto, Giuseppe, deve parlare, più tardi. Sono più tardi. D'accordo anch'io. Ecco, va bene. Il bel cenebroso. Ecco qua. Ok, vi facciamo sentire un blues in Mi, per la cronaca, un blues in Mi. Il brano è... credo che sia anche proprio stato scritto da lei, da Bonnie Raitt, una grande cantautrice americana, una gran blues woman, e bianca, con i capelli rossi e bianchi, e il titolo è Love Me Like a Man. Well, they got their son up on myself. You know they can't never love me, cause you can't even love myself. But I need someone to love me. I know you can. Once you put yourself above me, you can't love me. I come inside and lonely. Blu Radio, il Veneto come non l'hai mai sentito. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Senza parole. Come le vignette più belle, senza parole, per dirvi grazie, ci state facendo vivere delle emozioni davvero fantastiche. Salutiamo ancora una volta Erika Biavati, salutiamo Valerio alla chitarra. Eccoci. E Giuseppe. Giuseppe, cosa dici di questa interpretazione così blues di Bonnie Raitt versione Erika? E mi sono sentito per un attimo a Memphis. Ecco, vero, giusto, hai ragione. Proprio dentro, proprio nel teatro famoso di Memphis. Bello, me lo sto godendo in cuffia, quindi insomma. È una bella voce, Erika è una voce strepitosa. Perché Bonnie Raitt non fa solo blues, fa anche rock. E poi è pesante, pesante musicalmente parlando, una voce dura, potente. Beh, Bonnie Raitt è abbastanza anche versatile. Sì, versatile, anche country fa, lei fa sì, di tutto. Sì, ho sentito un po' di tutto, dal ragtime sì, a rock, quindi io l'adoro, perché comunque in realtà è molto anche scarna nel suo modo, non cerca il virtuosismo, ci mette tutto quello che c'è. Come il vecchio blues, serve. Si può dire. Sì, sì, però è un po' più di classe. Sì, un po'. Non la è classe proprio... non è acqua. Ubriaca, drogata, un po' magari. È molto... I blues dei bassi fondi in quel caso là. Sì. Questo è un po' più alto. Sì, è un blues un po' più raffinato, se certo, vuoi, ecco. Certo. Però mi piace molto, così come anche Norah Jones, mi piace molto. Ha fatto un disco nuovo, sì. Norah Jones, lo sai. Lui ha fatto i duetti con dei musicisti rock, per esempio Ryan Adams. Sì, so che anche Bonnie Raitt ha cantato. Sì, difatti non ha avuto nessun live. Successo nelle classifiche americane. Purtroppo. Ma come? Non è entrata neppure nei primi 30. Ma si vede che non aveva la major giusta, insomma. Non è un bel disco. X-Factor, perché forse dovrebbe provare. Sì, sì. No, apre una fattoria per conto suo. Bene, allora, visto che sono le 22 in punto, Maurizio, noi di solito si parte con quello che è la nostra valigia della musica, dove dovete riassumere quelli che sono i tre dischi che vi portereste via presso, doveste andare in un'isola deserta, ecco, naturalmente col vostro CD player piuttosto che con il vostro giradischi, se vogliamo, con i vinili che stanno tornando in auge. Allora, da chi partiamo? Allora. Mamma mia. Vediamo, tutti si guardano con fare circospetto. Da... Partiamo dai musicisti, che sono preparati, sì. Sì. Dopo al massimo io copio. No, c'è una regola ferrea di questo gioco, non si può copiare. Ma probabilmente quelli che dicono loro io non li conosco. Parliamo con Giuseppe o con Valerio? Giuseppe vuoi partire? Vai, Giuseppe. Vai, Giuseppe. Allora, facciamo a turno uno ciascuno. Dai, allora, io dico il primo è... Houses of the Holy del Led Zeppelin. Ah, come mai Houses of the Holy hai scelto? Perché lì è contenuta, secondo me, la più bella canzone di sempre. Cioè? Però secondo me, chiaramente, che è The Rain Song. Ah, ho capito. È una canzone che mi ha stupito moltissimo, perché ho scoperto la capacità di Page di elaborare degli arpeggi davvero originali e insoliti. Lui è stato molto più sperimentatore, penso, sulla chitarra, sull'acustica che sulla elettrica. Ho capito. E poi mi piace molto la melodia e lo sviluppo del brano. Benissimo. Ok. Vai te. Porterei The Dark Side of the Moon. Come mai? In vinile. In vinile. Lo porterei in vinile. In vinile. Ma un po' i Pink Floyd, insomma, mi hanno un po' segnato da quando avevo 7 anni, che mio padre mi ha fatto vedere il video di Duel dei Martelli. Sono rimasto un po' scioccato. Allora ho scoperto i Pink Floyd e quell'LP, secondo me. Poi l'LP come prodotto, come suonato, i suoni è veramente, per me, come mia opinione, è avanti ancora oggi. Lo ascolto con... Là c'era Alan Parsons, no? Che esatto, le mani. Produceva Alan Parsons, veramente una mostruosità di suono inconcepibile all'epoca, che di elettronica, di tecnologia, di performance, anche di concetto, di contenuti, insomma. E ricordiamo che ancora adesso... nelle classifiche del Billboard, nelle classifiche delle cataloghi, degli album da catalogo, e nei primi 20, cioè è il 25, esatto, anni, ricco, ragazzi, quanti non anni fa? Quanti anni fa è uscito? Ormai 73. E ancora, perché non c'è niente da fare. Quello è un mito e rimarrà sempre un mito. La signora Erika cosa decide? Allora, io mi porterei Tapestry di Carol King. Adesso facciamo un piccolo appunto su Tapestry di Carol King. Tu lo sai meglio di me. Grazie a Carol King e a Joni Mitchell, le donne sono arrivate nelle classifiche americane. Hanno sdoganato finalmente anche una donna, arrivata nei primi 10 nelle classifiche americane. Tapestry è stato un album importante per quello. La vittoria del cantautorato femminile in America. Ho preparato una volta, sempre per una festa della donna, che sono i miei momenti di produzione, una serata proprio sulle cantautrici americane, Ladies of the Canyon, Patti Smith. Non puoi fare stasera un pezzo di abbiamo tempo, vediamo. Comunque Tapestry io adoro proprio tutto il CD, in particolare alcuni brani. You've Got a Friend, Natural Woman ormai non ne posso più, però è un bel brano, e, ma anche Feel the Earth Move, sì, beh, ce ne tutto, sono proprio, è tutto straordinario, un brano tutto un CD. È un album perfetto, sì, veramente bello. Vai Giuseppe, secondo pezzo, secondo titolo. E beh, è dura, comunque sicuramente porterei un album di Hendrix. Ah, Flavio, cosa dici un album di Hendrix? Ma direi di sì. Direi di sì. Qualsiasi, è stata una bella esperienza. Uno specifico. Questo è davvero difficile da dire, perché Hendrix ha avuto un'evoluzione molto sofisticata. Cioè, si sente Hendrix delle origini anche durante l'Hendrix della fine. Sì. Quindi davvero non saprei in questo caso dire quale album preferirei. In questo caso davvero preferirei una raccolta. Una raccolta di Experience Hendrix, che è del 97. Perfetto, perfetto. Valerio? Beh, io porterei, anche qui sono indeciso, diciamo Machinehead dei Deep Purple. Ero indeciso tra In Rock... l'album precedente Machinehead, oppure... confermo, potrei, però sì, ce, sì, lo possiamo, sì, ce lo possiamo dividere, voglio dire di sì, sì, effettivamente. Ma io me lo porterei. Il rock è più conosciuto, però Machinehead è forse quello che si gusta di più. Machinehead è quello che nasce dal disastro dell'hotel lì sul lago di Ginevra, sì, dove quando hanno fatto lo Smoke on the Water, no? Dove hanno fatto Smoke on the Water, sì, che hanno dovuto registrare in un hotel, insomma, quel, sì, disco, quindi sì, perché era andato a fuoco il palco, era andato a fuoco tutto, il palco, no? Perché uno aveva sparato un fuoco d'artificio, sì, sì, così, insomma, infatti Smoke on the Water nasce, giusto, proprio dalla visione sul lago di Ginevra, del fumo nell'acqua e il fuoco al cielo, ecco, quasi, diciamo, Nerone la vedendo la Roma, esatto, bruciare, sì. Esatto, sì. Quindi porterei quello io, comunque, dai, no, sono convinto. Erika? Ma io sono molto più loffia come genere, questi sono tutti rocchettarissimi. Sì. Beh, io mi porterei il CD, credo sia il primo che abbia fatto, In Flight di Linda Perry. E come mai Linda Perry, che adesso sta veleggiando nelle classifiche di tutto il mondo, con un genere non prettamente uguale? Ah, neanche lo sapevo, ad esempio, perché le hit parade un po' mi mancano. E Linda Perry io l'ho conosciuta con il CD Bigger, Better, Faster, More, con i Fornon Blonde, sì, esatto. E poi dopo mi sono innamorata della sua voce, ho cominciato a ricercare un po' tutte, ho sia After Hours, che è il secondo credo che ha fatto, che In Flight, il, sì, primo. E poi ho visto che aveva suonato anche un tributo alle Zeppelin, poi ho cercato un po' tutto, che non è tanto purtroppo su di lei, cose del passato. Ma è una voce molto particolare, Linda Perry. Sì, particolarissima. Una cosa che apprezzo della sua voce è la sofferenza, secondo me, che sta dietro, anche il suo modo di cantare, che in tanti momenti ritrovo anche in me. E quindi una voce comunque sofferta, anche poi i brani, le sonorità di quel CD mi piacciono tantissimo, la copertina è stupenda, c'è questa come si chiama? Mongolfiera, esatto. Tutto dipinto, bello, bellissimo. C'è una comunicazione, un messaggio. Ray Dana, una cantante dalla Svizzera, in ascolto, saluta Erika e gli fa i complimenti. Questo è il messaggio che ci ha mandato. Grazie. Abbiamo citato Ginevra prima, adesso Svizzera. Siamo collegati con uno dei cantoni svizzeri. Bene, allora Erika Biavati, ospite nei nostri studi per proporci la sua musica, le sue canzoni. alle 22:08 all'interno di Blu Radio Sera. C'è ancora spazio per qualche canzone dal vivo. Certo. Cosa succede adesso? Ma io vorrei fare un... Oh, va bene. Allora, è un brano che ho conosciuto perché è inserito in un CD, in un paio di CD, di Bonnie Raitt. E, si chiama Angel from Montgomery, è di, credo sia di John Prine. E mi piace tanto. E allora perché non cantarlo? Dai. Adesso ve la facciamo sentire. Benissimo. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Un altro bel pezzo ci siamo ascoltati, Maurizio. Sì, più intimo. Stavolta Erika sì. È rimasta seduta. E già è significativo perché sei rimasta seduta. Hai dato meno forza, però più intensità. Più esatto, l'hai sì. accarezzato il pezzo, secondo me. Meno forza e più apertura. Sì, era un pezzo più intimista. Mm. Più... Lo ama, quindi sì, stava quasi piangendo. No, guai, mai. Duri. Però sì, mi piace tanto. Proprio un brano che adoro, mi piace tutto. Anche perché la distanza tra il groppo e l'emozione è poca, no? Il groppo quello... È poca ma importantissima. La distanza tra quello vero e quello finto. Diciamo che è come a teatro, no? Se devi piangere e piangi davvero, non si capisce niente di quello che dici e non ti riprendi più. Ed è un po' la stessa cosa. Sentire una cosa, secondo me, quando si canta non vuol dire sentirla totalmente, perché altrimenti non arriva di là, rimane troppo tua. Quindi secondo me la differenza è quella: quando riesci a fermarti un pelo prima arriva, quando invece bisogna esplodi. Avere il guinzaglio sufficientemente lungo per farla arrivare senza, come i cani, no? Corri poi tra uguale. Che musicisti hanno partecipato alla Bambina di Cristallo, oltre a Valerio che è qui presente? Allora, la Bambina di Cristallo, che è il tuo EP, bisogna sottolinearlo questo. Sì, diciamolo. Beh, chiaro. Allora, hanno suonato Ivan Fortini alla fisarmonica, che è il mio pianista. Poi c'è Simone Pozzi, il batterista, e Simone Masina, il bassista. Lì suona il basso o contrabbasso? No, suona il basso. Il basso. Poi, anzi, no, il basso senza tasti, il fretless. Il fretless. Ah, fretless. Sì. Esatto. E poi alla chitarra, Michele Galli. Anche Michele Galli, che è stato il chitarrista con cui io collaboravo prima. E che saluto perché ci vogliamo ancora bene e insegna con me in un'altra scuola di musica e sì, è un brano, diciamo, uno di quelli più significativi forse nella mia produzione. Un gruppo aperto praticamente, allora. Sì, sì, diciamo che io ho la mia band fissa e però visto che nel corso del tempo ho conosciuto vari musicisti, tantissime collaborazioni, tributi, cose di beneficenza di tutti i tipi, dal liscio alla dance, si può dire, allora poi se ne approfitta, insomma, si cerca di chiamare le persone giuste. Poi sai, se conosci un musicista, sai come suona, quando magari pensi a un arrangiamento di un brano ti immagini già l'assolo fatto da lui, perché sai che un sassofonista qualunque magari lo farebbe diversamente. Certo, chiaro, benissimo. Cioè, lo fa in una certa maniera, in un certo modo. E quanto ci avete messo a registrare l'album praticamente? Beh, allora, parliamo dei tempi. I tempi di lavoro, per quel che riguarda gli album, sono difficili, molto difficili. Perché il tempo è poco in generale e per lavorare un album bisogna anche stare lì con la testa e stare concentrati, non si può trovarsi un paio d'ore un giorno, un altro paio d'ore un altro, quindi quando ci lavoriamo sono giornate intense, lunghe, più nottate che giornate, ed è tutto purtroppo però molto frastagliato, perché il tempo appunto è poco. I miei musicisti sono, secondo me, favolosi, io li adoro, sono gli uomini della mia vita, ma purtroppo per vivere, anzi per fortuna per vivere, suonano, ma purtroppo devono suonare altro. Certo, e chiaro. Quindi anche questo porta via tempo. Dedichiamo poco tempo, questo sì, sto cercando. Sì, volevo di fare dire un lamento ufficiale, perché insomma... Voleva lamentarsi in diretta, insomma. Sì, è un lamento, non l'ho fatto con la gnola perché dicono che gnolo, però volevo gnolare anche. Bene, perfetto. Ma lavoriamo mai. Non poteva scendere in piazza, ma in radio è scesa. Eccola qua. Esatto. Bene, allora, abbiamo parlato di La Bambina di Cristallo. Allora vediamo di ascoltarla anche dal tuo EP. Sì, poi magari ne parliamo. E poi ne parliamo, anche perché poi ci sarà il rush finale, vero Maurizio? Esatto, il rush finale, che dà proprio la caratteristica di Blu Radio Sera, e soprattutto la tua caratteristica. Tu sei una persona che suona, che ama suonare dal vivo. Sì. Benissimo, allora ascoltiamo La Bambina di Cristallo. La bambina di cristallo, a mani come fili d'erba, tra le lucciole farfalle si addormenta ad occhi aperti. deciso di parlare. Sono gli angeli caduti da un cielo che non li ha voluti. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E abbiamo ascoltato La bambina di cristallo, a cantarla Erika Biavati, che abbiamo anche in studio con noi. Grazie ancora Erika di essere venuta qua. Grazie, di averci fatto ascoltare delle cose assolutamente a volte fuori dal mondo, fuori da ogni suono normale, nel senso ho ancora in mente gli ultrasuoni di prima. Ogni tanto scappa. Posso dire una cosa sulla bambina di cristallo? Sì, sì, sì, certo, anche la due. La bambina di cristallo racconta di Angela, che è una bimba autistica con cui ho lavorato per non tantissimo tempo, e ecco, questa canzone parla di lei, giusto perché ci tenevo, perché è una bimba che c'è. E sua mamma ha avuto il mio CD e ecco un brano a cui sono molto legata, perché comunque è stata un'esperienza nel mio lavoro di assistente ai disabili molto importante, perché diciamo che il mio spirito da Croce Rossina non è stato soddisfatto, perché non voleva farsi toccare da me, e invece poi quando ho capito che però da altri ragazzi magari lì con lei si faceva toccare volentieri, allora comunque sono riuscita ad essere appagata lo stesso, anche se non avevo vinto io, ecco. E quindi ci tengo a questa canzone in modo particolare. E anche la title track dell'EP. Eh sì. Come si dice, chiaramente. Si dice ancora title track, quindi è un brano fondamentale. Se uno è intitolato il disco in una certa maniera, vuol dire che è un brano importante. Poi sì, c'è anche un disegno. C'è un disegno, sì. I disegni sono stati fatti da Elisa Melloncelli, che è una ragazza che veniva all'elementari con me, che poi ho incontrato poco tempo fa. Una grandissima artista, sempre disegnato benissimo e per cui ho cercato di coinvolgerla nel mio progetto in qualche modo, perché lei è veramente molto in gamba, proprio tanto. Sì. No, è anche simpatica da vedere questa, diciamo, questa bambina, ecco, con diciamo, come dire, quel telaio che si usava anche nel 1003-1004, sì, quando era forse sì, un po' la struttura delle gonne. Un po' la struttura delle gonne, sì, che invece probabilmente per far vedere che la bambina è completamente trasparente. Sì, e poi c'è il discorso della gabbia. E poi diciamo che la bambina di cristallo per certi aspetti mi rispecchia, ecco, quindi sì, la sento molto, ecco. Allora, Maurizio, visto che sono le 22 e 24 minuti primi, lo diciamo perché andiamo avanti, sconfiniamo rispetto al nostro stasera orario. Sconfiniamo, sì, sconfiniamo, esatto. Visto che Renato Ferro aveva un altro impegno, lo speaker che sarebbe venuto dopo, allora noi diciamo, vabbè, ci regaliamo altri 15 minuti abbondanti. In realtà l'abbiamo chiuso nel bagno. Sì, è chiuso nel bagno. Sì, sto gridando. Sì, però è tutto insonorizzato, sì, nessuno lo sente. È vero, è una fortuna che il bagno sia insonorizzato certe volte. Sì. Allora, Erika, come andiamo avanti? Adesso, allora, vi facciamo sentire Madame la Vie, che è una canzone in francese, l'unica che io ho inciso in francese, poi ne ho altre in lavorazione. Io adoro il francese e oui. E oui, oui. E questa è una canzone che parla della vita vista come una donna che scappa e che non ha tempo di fermarsi. E che comunque, ecco, testi e traduzioni di tutte le mie canzoni sono sul mio sito, quindi se poi qualcuno fosse interessato lì può leggere tutto. Madame la Vie. Madame la Vie, je suis ici. demande un plaisir. Est-il possible d'avoir le permis de rester un peu plus avec vous? Madame la vie, je suis ici pour vous demander un plaisir. Est-il possible d'avoir le permis de rester un peu plus avec vous? Madame la vie, donnez-moi le temps de goûter l'été. Je ne peux pas regarder sans toucher la joie qui vont se montrer. Convaincu qu'il est mieux de vivre un jour comme un lion que plusieurs comme un lion. Vous êtes loin, vous êtes si belle, vous êtes très engagée, vous ne pouvez pas rester. Madame la vie, donnez-moi le temps de goûter l'été. Je ne peux pas regarder sans toucher la jour qui va. L'attualità dal Veneto, le voci dei protagonisti, approfondimenti e notizie in tempo reale, con Mirko Cavallin dalle 11 alle 12.30, dal lunedì a venerdì, su Blu Radio Veneto. Focus, l'attualità dal Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Alors, madame et messieurs, vous avez écouté, avant d'entrer dans la publicité, la chanson qu'a chanté Erika Biavati, qui s'appelle Madame la vie. Oui. Merci beaucoup, madame. Vous l'avez bien aimé. Oui. Oui. Oui. Bien, bien. Siamo internazionali anche sì, francesi. Sì, sì, sì, dappertutto. Dappertutto, siamo due, dappertutto. Due parole in francese si trovano. Si trovano, dai. Oh, sì, c'è parble. Mi avete ricordato la mia professoressa di francese. La odiavo, scusate. No, la Uno mia era brava. Scusate lo sfogo. Era brava, la mia era buona. Poi dipende da che parte si guarda la Tour Eiffel alla fine, no? Hai dato la grinta anche in francese. Ho letto una recensione di Fabrizio Corniati che scrive che molti pezzi tuoi si ispirano alla Francia. Davvero? Sì, anche lui descrive anche il primo pezzo del disco, forse secondo lui, no, il primo pezzo, La Luna, pardon, ha qualche vena francofona. Beh, diciamo che il cantautorato francese è importante, quindi in questo senso sono cioè, contenta. Sei contenta di questa, sì, di questa critica contenta. Positiva di Fabrizio Corniati? Non conosco tanto la musica francese, però e comunque un po' quelle atmosfere, un po' la fisarmonica, un po' di malinconia, qualche quella cosa un Brassin. Po' da paese, un po'. Diciamo Jack sì. Black non è francese ma è belga, però Jack Black fa parte della tematica non francese. Lo conosco, ammetto. Jack Black lo conosci? No. No, vabbè, non, non lo conosco. Vabbè, non no, Jacques Brel. Sì. Jacques Brel, sì. Sì, è belga, non è francese. Fatto la canzone dei del Gorilla. È del Gorilla, sì. Del Gorilla, quello il che gorilla avevo di De André. Preso De André, sì. Ah, ecco. Sì, sì, sì. Jacques Brel, sì. Attenti al Gorilla. Sì, sì. Ah, sì, sì. Grandissimo cantautore era. Lui era considerato francese d'adozione, esattamente, poi pure era belga, lui sì, era nato. Ma lui ha fatto anche la canzone dei Vecchi Amanti. Aspetta che guardo. Non mi ricordo. Dai, che l'ha rifatta Battiato. Può essere che è una roba dentro... tristissima. Sì, sì, mi pare sì, di sì, sì, mi pare che sì. I miei musicisti mi hanno bocciato, ma che io prima o poi farò. Infatti mettono perché cioè, la Valeria l'ha bocciata. Tutti, mettono sempre ore, la pistola sì. legata al CD in questo caso. Sì, mi dicono qua in regia Agostino che l'ha fatta anche una cantautrice una tua collega Suzanna Parigi, la canzone degli amanti di Jacques Brel, sì, fatta anche da Battiato. Ah, vedi? Sì, sì. Peccato, grande. Ho iniziato dicendo non lo conosco. E perché l'hai bocciata a Valerio un tributo a Jacques Brel? Ma non è che l'ho bocciato, non è che l'ho bocciato, cioè nel senso se aggiungiamo questo togliamo qualcos'altro. Questo allora, è vabbè, dicono che faccio troppi pezzi depressi. Non possiamo sempre aggiungere, cioè va bene l'introspezione, vuole diciamo, fare del così. Rock. No, non voglio fare del rock. Vuole cioè, fare del rock? No, non voglio fare proprio del rock. L'ultimo voglio concerto aveva la chitarra elettrica. Visto che io Erika Biavati... Non ho mai fatto entrare la chitarra elettrica in sala prove. Io già sono riuscito a conquistarmi lo spazio con la chitarra elettrica, quindi sì. riuscirò prima o poi. Allora, io vorrei aprire una parentesi su questo chitarrista. Conquista anche il posto per l'amplificatore. Sì. Sì, una testata, una roba grande. Cioè, allora, il giorno prima del concerto a teatro, ragazzi, tutti vestiti di nero, ok? Sì, sì. La deve raccontare mando un messaggio, a tutti. No, guarda. Devo dire a tutti perché... Cioè, anche a tutto il Veneto. Mando un messaggio, ragazzi, vestitevi di nero, va. Mando anche una mail, ho detto tanto è gratis, mi raccomando ci vestiamo di nero. Sì, abbiamo capito. Bene, nei camerini, 10 minuti prima dello spettacolo, Biavati, sei contenta che la camicia bianca? Come la camicia bianca? Dobbiamo fare le riprese video, come la camicia bianca, caro. Beh sì, perché quella nera l'ho presa, ma c'era una padella di sugo così, e quindi, ma come... Sì, perché si vedeva proprio il rosso del sugo nella striscia bianca. A parte che la striscia bianca non vuol dire che la camicia era nera, no? Cioè, se c'era una striscia bianca. Certo. Bene, alla fine... Vabbè, dopo questo interessante no, diciamolo, spunto, perché poi possiamo ha suonato con la maglietta sudata che aveva il bassista addosso durante le prove. Era non nera. Era sudata, comunque. No, profumava di rose. Bene. Volevo dirlo. È un gossip c'è un po' di c'è un po' di cattiveria ancora dello sfogo che come no, dire in realtà, che in realtà ci vogliamo bene cioè, la maglietta di cotone bruttissima collo brutta proprio era l'agente segreto Giuseppe cosa dice di questa l'agente segreto di questo no, di questo scambio di magliette è venuto con la maglia dei Pink Floyd guarda ci manca solo quella no vabbè comunque adesso a parte gli scherzi sì, esatto. Cioè nel senso delle proposte artistiche alternative ci stanno nel senso però bisogna se aggiungi da una parte togli dall'altra sì, d'accordo comunque fin quanto sono una provocazione mia quella di Jack Black va bene no no perché ma comunque ma io ci avevo creduto a livello di contenuti va bene. Allora finiamo in bellezza cosa dice Maurizio? Sì, sì, ancora un paio di pezzi da far cantare a Erika con il valido accompagnamento dai. Di Valerio alla chitarra diciamo e il dopo pezzo... chiudiamo e dopo vediamo vabbè dai dopo questa canzone parliamo un attimo poi vi lasciamo ai vostri impegni allora vi facciamo sentire Regina senza re che è uno degli ultimi brani che abbiamo fatto. Mi alzo. Conosci quella favola che fa la la la la la la la la la. Il principe azzurro dal rosso mantello, bianco il cavallo e grande il castello. Conosci quella favola che fa la la la la la la la la la. La bella fanciulla, la matrigna ardia, il ballo, la zucca, un tocco di magia. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccolo qua, l'ultimo nostro intervento dopo l'ennesima canzone di Erika Biavati. Abbiamo imparato a conoscerla in tutte le sue sonorità, in tutti i suoi gusti musicali. Abbiamo ascoltato il blues, un po' di gospel, un po' di folk, c'è un po' di tutto all'interno del contenitore vocale di Erika. Il nostro messaggero, ti chiamo messaggero, sì, sì, sì. Saluti da Elena e da Luca. Da Luca. Ah, pardon, da Luca, cioè dalla città di Luca, Luca. Elena. Sì. Ciao Elena. Ah, bene. Da Luca, Elena con anche l'Anna. Sì. Anna, che è in regia. Ciao, ah, bene, Anna. Sì, sì, abbiamo ospiti anche oggi. Fantastico. Magari andando avanti col tempo ci faremo pagare anche delle poltroncine più comode, magari sì, anche degli ospiti. Cocktail. Sì, anche sì, magari sì, adesso c'è solo dell'acqua. Uno spiedino di frutta. Sì, ecco, ci hai dato delle buone idee. Una tartina col salmone. Registriamo tutto quello che stai dicendo. Sì, è tutto registrato, ecco, prendiamo appunti. Sì. Lo facciamo ascoltare. Mandiamo un fax a qualcuno. In direzione, lo spiedino per fax non viene bene. Allora, come dicevo Maurizio, nostro ultimo intervento perché poi lasciamo che Erika si scateni un pezzo molto bello che a me è piaciuto molto, che è Welcome Children, molto folk secondo me, sì. E chiude l'album, mi pare, l'EP, mi pare. Sì. Esattamente. È una canzone, Welcome Children, l'ho scritta in occasione della strage che c'è stata a Beslan, quando nel 2004 c'è stato un assedio alla scuola e in questa occasione c'è stata questa strage di bambini e il Welcome Children è un benvenuto ai bambini in paradiso, per cui in realtà l'atmosfera non è triste e sconsolata, ma diciamo c'è una vena di speranza. Mentre il ritornello della canzone si rivolge ai genitori e chiede di trovare pace per lasciare che anche i bambini poi riescano a... ma stare sereni dove sono. Volevo sottolineare una cosa, che Valerio suona senza petro e con il pretro a seconda dei momenti, vero Valerio? A volte suona anche coi piedi, però non se li era lavati e quindi ho detto oggi no. Col plettro dà più vigore, però senza plettro colora meglio il pezzo. Esatto. Abbiamo visto che c'è anche una pedaliera, un peccato non poteva esatto, c'è anche la pedaliera che è stata attivata dal calcio di Erika. Sì, ha provato a usarla, mi ha tirato un calcio che mi ha staccato una gamba. Ha preso la pedaliera sbagliata in questo caso. Vabbè, allora prima di salutarci Maurizio, un appuntamento prossimo con il live. Domani sera ci sono i FAT è un gruppo di Bologna mi pare, sì. E che fa musica anni 80, molto interessante, decisamente con le tastiere, anni 80, cioè un momento anni 80, il riferimento è agli anni 80, poi i FAT fanno la loro musica di adesso, però molto interessante, molto complesso, come sempre, come tutti gli spettacoli di Rock Wave. C'è sempre qualche novità. C'è sempre qualcosa di nuovo. Esatto. Benissimo, allora per riparlare di Erika Biavati, prossimi appuntamenti nell'immediato futuro. Allora, nell'immediato immediatissimo non c'è niente. Nel senso che noi stiamo lavorando al disco, dobbiamo finire gli ultimi due brani, quindi in questo momento siamo molto presi da questo lavoro. Che ci manderai il disco nuovo, Certo. Assolutamente. Certo. E poi in ambito didattico, diciamo, terrò un corso sul fischio, quello di cui si parlava prima, a Ravenna a fine febbraio. E poi altre cose, niente, sia io che Valerio che tutti i miei musicisti insegnano e quindi facciamo tutti i nostri spettacoli con la scuola e vorrei approfittarne, già che sto parlando, per ringraziarvi, per ringraziare voi e chi come voi continua a portare avanti trasmissioni che lasciano spazio a, insomma, nuove proposte, che veramente ce n'è tantissimo bisogno, ma soprattutto per il pubblico ancora più che per i musicisti che fanno cose. E se vorrete dopo vi lascerò anche qualche nome di band emergenti, secondo me veramente molto valide, tipo i Miss Patti Pinsi, Blue Stress, Formentera Lady, ci sono tante realtà. Mi piace Blue Stress, bel nome. Sì, ci canta il mio ex. Bene. Lo salutiamo, ciao Fabio. Ciao. Comunque, se volete chiamarli, no, sono stata buona, vedi come ho superato. Sì, sì, sì. Sì. Agostino, deve dire una cosa, vero Agostino? Sì. Ecco. Per parlare c'è bisogno del microfono, però tu hai scelto le cuffie, va bene, lo stesso. Non importa. Agostino, parla tranquillo. Va bene, tranquillo. Non importa. E intanto ti ringrazio Erika per quello che hai detto, perché noi come radio siamo veramente su questa linea, cioè proponiamo gli emergenti, vogliamo sempre comunque lanciare le persone che hanno poca visibilità e quindi è proprio il nostro credo come radio, facciamo proprio esplicitamente questi live per dare spazio maggiormente a queste voci come la tua, che tra l'altro è bellissima. Grazie. E poi volevo strappare, visto che c'è qui una tua amica, che è una mia immensa amica, un invito, una promessa più che altro, a venire qui un'altra sera con l'Anna Tosato, che è venuta a trovarci. Ci cantate qualcosa insieme, magari viene. Volentieri. Viene il tuo chitarrista, e se magari la Anna se ne vuole portare uno suo, facciamo una bella trasmissione con le vostre due voci, con me, con Maurizio, magari sì. Se c'è anche Flavio. Sì, sì. E passiamo una serata con voi. Sì. Benissimo. Anna mi dice allora, di sì, vero Anna? Anna mi ha già detto di sì. Abbiamo sentito volentieri. Il sorrisetto in sottofondo. Promessa? Sì, certamente. Okay. Bene. Allora, buonasera a tutti, scusate se mi sono intromesso. No, non importa. Anzi, lo chiamiamo Agostino. Grande Agostino. Dice sempre così. No, è simpaticone Agostino. Bene, allora siamo giunti al termine della nostra trasmissione. Io e Maurizio ce ne andiamo via pian pianino, però vi lasciamo i microfoni aperti affinché ci sia la canzone che abbiamo detto prima. Sì, noi vi facciamo sentire Welcome Children, e comunque per chi fosse interessato a seguirci in altri concerti, in altre iniziative, e come questa, come altre cose così, sul nostro sito ufficiale, su Facebook, MySpace, tutto quanto, trovate tutte le informazioni sempre aggiornatissime. Okay. Benissimo, bene. Allora grazie. Da parte di Flavio e Maurizio, bye bye. Ciao, ci sentiamo. Ciao, grazie. Ciao, vi grazie lasciamo ancora. Con Erika Biavati, ciao. Valerio, salutiamo anche Giuseppe che ci ha fatto compagnia in questa serata. Ciao. Di nuovo, ciao, buona ciao. Serata a tutti. Little wings, now it will be.